ce l'ho sempre attaccato. Mi fa da commutatore, da ROS, metterò da watt, metterò da accordatore d'antenna, sempre attaccato di linea. Lo tengo sempre attaccato in modo che c'hai tutto lì. Adesso vedo i watt, così vedo le stazionarie, uno il rapporto a 0,1, la calibrazione è perfetta. Aspetta, anche troppo, ecco qua, sempre tutto sotto controllo. Ma questo mi sono accorto che non ha bisogno di calibrazione. Questo metti, allora c'è quell'affare bianco, lo metti nel puntino, schiacci il rep e ti misura la stazione, non ha bisogno di camera, da fondo scala, fa tutto quel passaggio. Questo tu lo metti e lui funziona. Sì, se ce l'hai diretto non c'è bisogno di fare calibrazione. Questa ce l'ha la calibrazione, c'è il tuner, ma perché praticamente c'è il coso, l'accordatore, capito? Quindi c'è la calibrazione, la T230, che va bene. Sì, più là me ne voglio prendere uno Rosmeter Vametro, ma non so che si chiama, con l'accordatore inserito, perché va un po' meglio magari. Se usi certe radio ci vuole, secondo me. Ah beh, certo che sì, è certo che sì. Se devi controllare fare è meglio che c'è lo strumento sempre a controllare. Si tratta di una radio QC impulsante che va a 101 watt, 50 watt, vivo poi foto una cosa del genere. Perché se no ti servono un po' troppo, non va bene, poi un QC radio. Non so se, cioè se magari spingi, che cosa ne so, spingi quasi 100 watt per dire. Cazzo, ci salgono le stazionarie a 1,6, a 1,7 non va già bene. Ma non lo so se salgono così tanto. No, non salgono, più di quello non salgono tu. Non salgono, vai tranquillo. Massimo ti possono levare 1,3, 1,4, non di più. Anche a Mauro faceva così. Poi quando l'antenna si asciugava scendevano a zero, capito? Sì, tutta salana come t'antenna. Oh, ma già va bene, però forse dice che bisogna piazzarla, come si dice? Bisogna stare attenti piazzando i tubi, mi hanno detto. Ma tu lo strumento dove ce l'hai? Ce l'hai, come si dice, attaccato, collegato? Appa. Ecco, e lascialo stare lì. Lascialo collegato, che è sempre meglio avere qualcosa che faccia da controllo, capito? È meglio. Non mi fido assai, no. Vabbè, quando attacco il coso già va bene. Ma quando attacco il coso, cioè quando attacco questo apparecchio lo controllo. Ma quando attacco l'amplificatore no, se no si imballa. Ehi, no, va bene Antonio. È meglio sempre avere qualcosa per controllare, magari se non ce l'hai attaccato, però bisogna averlo sempre uno strumento, poi se hai posto te lo metti e quindi c'è tutto sotto controllo, non si sa mai, uno spezzone, una tronzata, capito? A me l'altra volta stavo modulando, ho visto il wattmetro che è andato a zero, ho detto ma la radio si fa da rovum. Sono andato a controllare subito e è andato uno spezzone in corto, perché può andare anche quando stai modulando. L'ho tolto, ne ho messo un altro, perfetto. Però, vedi, se io non avevo lo strumento, non me ne sarei accorto. Beh, avessi bruciato tutto. Puzzolegimi. È puzzinoso lo spezzone. Se ti va in corto, ti può entrare verso nella radio, cazzo, e bruci tutto così. Infatti subito ho mollato il PTT e sono andato a controllarmi tutto e ho visto che mettendo, ci ho pensato, ho detto, ma se non è la stazione perché è tutto a posto, la radio assorbimento ce l'aveva, quindi allora sono andato a mettere un'altra stazione e ha funzionato nuovamente. Infatti quella stazione non l'ho neanche controllata, ma ho staccato l'IBL e ce l'ho buttato via perché può essere anche il cavo, capito? È fatto bene, è fatto. Ma tu non vi crederai. Ti rammenti un poco d'anni fa che mi avevi dato quelle ispezioni là. E beh, io ce li ho ancora attaccati. li ho riportati qua e cioè io ancora attaccati qua a me. Se io ti mando la fotografia, cioè sono sempre, sempre funzionato bene, hanno, e non gli ho mai, cioè non l'ho mai dati, capito? Non quelli che mi hai dato una volta. Ah, ehi. Capito, ti ho. Ascolta, e quel B150 sempre ce l'hai, sì, ma hai detto che ce l'hai sempre, quello che ho trovato io. E qui ancora, non l'hai attaccato. E c'hai il 747 e il B150 anche. Cappa, no, quello non si tocca. Quello non si tocca, Claudio. Via. Quella roba lì non si tocca. Ma dove? No, va bene, beh, quello te l'avevo dato io. Te l'avevo dato io. No, io ne avevo due 747. E uno l'ho dato Antonio, riserva. E l'altro me l'ha mantenuto, capito? Sei capo, mi ti ha già mandato. Assiraggio, no, quello non l'ho mai dato, un TikTok e visto. Ma pure a Babbo Vizio me l'ha dato Salviero e non si tocca, ha giudizio. Ah beh, cazzo, quello era il tuo, non era il suo, no? L'ha giocato a te, no, Edo? Cappa, no, va bene, non mi ha detto mai niente. Perché l'ha visto, no, te l'ha dato Vizio, no, Vizio me l'ha dato, Claudio. Ma non l'ho mai dato, mai. No, beh, quando c'è una cosa che funziona, io ti ripeto, ne avevo due 747, uno me lo sono tenuto e lo stavo usando col BAC, poi invece mi è entrato un B300 che mi aveva dato Gianfranco e quindi uso quello lì, capito? Non problema. Va bene, KK, reghette debodì. E beh, Marcolino Condo, svegliato ti sci. Eia, più o meno. Mi hai ricordato adesso che io, a parte il 203, avevo il B150, no, sempre quello piccolo, dorato, solo che non l'ho più visto da mesi, se non da anni. Quello o è sparito in casa, scomparso in casa, oppure l'avevo regalato, perché vendere non si poteva vendere, regalato, però aveva sempre quel porco difetto che, per quanto lo pilotassi con pochi watt, tendeva sempre a saturare. E quello aveva quel finale solito, quello a croce, come si chiama? MRF? Non mi ricordo la sigla, boh. Invece il 203 che ha quattro finali MOSFET, vabbè, perché sono MOSFET, con piloti in basso non ha mai saturato, è uscito sempre limpido il 203. No, vanno bene quei linearitmi, Marco, vanno molto bene. Non sono a livello del 747, come perché il 747 avendo il finale a MOSFET magari non ti comprime la modulazione se le dai un bel ingresso. Quello lì devi stare un po' attento, devi darle pochi watt, se no ti comprime la modulazione, l'unica cagata che hanno fatto. Però è un bel linearetto, i suoi 100 watt li dai. Un attimo il ubriaco, va a cambiare l'acqua agli olive. Vai Antu. Eia, ma può darsi che l'abbia dato anche a Pomponio, perché io non usavo. O l'avevamo dato a Leoncino per andare quando lavorava al Ghero, non me ne ricordo, sono passati troppi anni. Ma se tu vai a controllare il 747 chiamato HF Booster, cioè l'ultima versione del 747, che si chiama così, 747 HF Booster, credo di ricordare, praticamente tu apri e c'è praticamente il circuito stampato, siglato, R Metalli KL203, cioè lo stesso lineare. E infatti ha 4 MOSFET ed esce pulito, se uno lo alimenta meno di 5 watt è pulito. Anche 5 gliene puoi dare, però se cominci già a dargli già 6, 7, a 7 inizia a saturare, testato da me. E poi costano poco, quando l'ho preso io costava 40 euro più 8 euro di spedizione, 48 euro. Adesso se vuoi comprare il 747 alla GBC, quanto gli volevano? 90 euro. Ma non ti innandi. Correggimi se sbaglio, ma oltre al 747, avrò fatto anche del 757. Sì, sì, c'era la sigla, più alta era la sigla, più grosso era. Solo che non li ho più visti in giro in vendita. Cioè, i negozi li hanno terminati ed è come se fosse uscito fuori catalogo. Parlasi pure mi. Invece la RM Italy produce sempre. E sai chi li vende? Radio Hotel in Italia, proprio rivenditore ufficiale, si chiama il negozio ES Radio Hotel. E c'è anche prezzi buoni, perché se tu vai a comprarlo da un altro, lo stesso te lo fa pagare 20-30 euro in più, lo sai. È come la storia di Media Globe. In Media Globe c'è prezzi migliori su tutto, su antenne, su radio, su baracchini, su accessori. Sì, mi ricordo questa cosa. Perché un giorno parlavo con uno e mi ha detto, usando il linearetto 757, 747. No, io ho 757. Che io non ho mai visto, suppongo che sia uguale al 747, magari c'ha qualche watt in più, non lo so. No, io ho il B300 che è favoloso, ce l'ho con l'Elbex, dà i suoi watt, va benissimo, vado 5 watt d'ingresso, per non saturare, lo posso usare sino alla sesta potenza, e va bene. Quando uso il baracchino, se no oramai uso sempre il baracchino, sempre spento, uso sempre o 140 o 440, 430 ce l'avevo stamattina, già va bene, e io voglia, gappa. Sì, ce l'ho in foto Claudio, ce l'ho in foto qua, e cacchio mi si apre la pagina, vai non a male. Allora, CTE, è ancora marcato CTE, quindi adesso è un modello vecchio. Allora, mobile HF Power Amplifier Solid State. Sai che c'è un tastino, classe di funzionamento A, A, B oppure C. Poi, modo AMSSB, ovviamente AMFM, SSB, CV, potenza, vabbè, accesa spenta, e poi c'è una specie di, ha un jack da 3.5 sotto il LED rosso, come se fosse una specie di comando remoto che li potevi attaccare. Sì, esatto, c'è un buco col jack, no? Sì, c'è il foro per il jack 3.5, però io non mi ricordo i dati, non so se ci siano i dati, sicuramente è qualcosa di un po' più grossetto, magari ci avrà 150 watt, 200. Vediamo se c'è qualche scheda tecnica, sono curioso. Qualcosa c'è, mi ricordo, comunque vanno molto bene quei linearetti, veramente. In macchina con un baracchinetto, le attacchi quello lì, funziona bene. Ti dai sui watt, mi ricordo Gianni in macchina con l'Alan 48 modificato, 747, cazzo era una bomba, c'era un bellissimo impianto nella Opel, veramente. Quando partivo da Porto Torres, io lo sentivo già a Santiago 9, quando erano nel piazzale lì del supermarket. Poi quando iniziava a fare la 131 si puntava sul 910 e non si spostava da lì. Me lo ricordo, lo sentivo anche io con l'antenna più piccola. Un bel impianto c'era già, infatti è disperato perché non riesce a fare l'impianto nella nuova, però chiaramente per fare l'impianto lì come aveva prima deve farlo come l'ha fatto di là, quindi toglie la capota, bucare, ma la macchina è nuova, capito? Passare tutti i cavi, fare l'impianto come c'era prima. Ma giustamente dice qua, non ce n'è più nessuno, prima c'era molta più gente, quando uscivo al lavoro eravate tutti in radio, adesso sono a casa, cosa lo bomba fa? Devo uscire una volta ogni tanto, mi porto il portatilino, mi faccio due chiacchiere giustamente. Infatti, io non ci ho sentiti alla rotonda a Platamona. Cavolo, arrivavo, anche se un portatilino attaccato a quell'antenna, arrivavo. Comunque io ho il 747 booster, c'ho quello lì, c'ho. Ah, quello che c'ha Antonio è quello lì, Marco, quello perché. Aspetta Claudio, sto vedendo il video di Francesco, come si chiama? Luna Rossa, come si chiama? Sì, praticamente quella classe AB o C, quel selettore, altro non è che la potenza bassa e potenza alta. Allora lui l'ha ottimizzato, è praticamente potenza bassa 90 watt, potenza alta 120 watt. Poi fa la prova di watt picco picco, che però in AM aggiungo un peso che non sono mai reali. che domanda mi hai fatto su quello? Ho detto quello che c'è Antonio è quello booster, è quello che mi stavi dicendo tu, 747. Ma è un'affermazione o una domanda? Anto, cosa c'è scritto davanti sul 747? C'è scritto anche HF booster? Sì. Oh, esci rubiglio. Ehi, allora, 747 booster, Midland. HF non è vero. Midland 747 B booster. Ah, vabbè, non c'è la scritta HF, che poi HF fa 26-30 alla fine, se lo modifichi puoi fare dai 20 ai 30 forse, ma devi alterare qualcosa dentro. E io. Basta questi messaggi, ma chi è? Mamma mia, questo WhatsApp lo sto odiando. Cioè, l'avevo preso da Tonino, l'avevo comprato. Aspetta che sto ascoltando un messaggio. Ho pigliato un dettonino la bicicletta. Audio. Sì, ma non ho capito, ma quello che c'è Antonio è normale come quello che c'ho io allora. Però il mio non è della Midland, il mio è CTE. Vabbè, la stessa cosa. Alla fine è la stessa roba. Perché prima era, cioè sono la stessa azienda, capito? Perché prima c'era detto che CTE International, poi l'hanno passato con la stessa dentro. Io più quelli ultimi li ho visto proprio c'ha dentro un RM Italy Cappelle 203, identico. C'è anche il numero della versione, no? Praticamente la Midland ci mette la buccia, il nome, e la RM Italy ci mette il ripieno, il lineare vero e proprio, capito? Marco. Chi è? Ciao. Midland HF 747 booster ed è RM Italy. Ah, dentro, l'hai guardato? Eia, buonasera. Sì, io parlo di video online, perché io il 747 non lo possiedo, però dei nuovi usciti c'era proprio il 203 dentro praticamente. Solo che vedi, la Midland, anche trovandola online, ci mette sempre quelle 10 o 20 euro in più, perché ha marcato Midland. Eia, il mio, io ho quello recente, ed è così, come stai dicendo tu. E c'ha HF 747 Booster, naturalmente Midland, e ce l'ho io, ce l'ho, nuovo. Ciao, ma da che non fate nulla, che se non è 0,30, No, che non è 0,30, c'è un coso di CB. Ma ne scritto HF vuol dire 0,30, ma che se non vi fate 0,30, è come quello che ho io, 26 a 30 fa, e basta, che poi a 30 già non c'è via nulla, vabbè, 29-27 fa, dai, però il mio è della Midland, cioè della CTE, non è Midland. E c'è scritto CTE 747 e bu, non ho scritto altro. Che prima mettevano CTE, la stessa azienda è clara. È la stessa azienda, poi hanno chiamato con Midland. Eia, no, ma Claudio, inteso HF, cioè per far capire che fa 26-30, cioè rientra nello spettro HF, ma non è che faccia tutto. Però se lo modifichi, ci sono dei radioamatori che li hanno modificati, sono riusciti a farli andare dai 20 ai 30, poi addirittura qualcuno forse è riuscito a farlo arrivare ai, come si chiamano, i 20 metri, quanti megahertz sono? 14 megahertz intorno. Naturalmente perde un po' le specifiche, anziché un bel po' di watt te ne dà meno, però lo devi manomettere per arrivare a quei limiti di banda, capito Claudio? Ma cosa serve? Non serve a niente, quando una HF ha 100 watt, 150 watt, due bori, un 747 che dà 80 watt, cosa serve? Non serve a nulla. Non serve a niente, capito? No, io ce l'ho, va bene, ne avevo due, tutte e due uguali, uno l'ho tenuto e uno l'avevo dato a Antonio Ricetto. Però ti ripeto, come lineari vanno molto bene per il prezzo che costano. Non hanno niente a che vedere con l'RM Italy, lascia perdere, c'è un abisso. Assolutamente, però sono dei bei lineari che ti consentono di attaccare un baracchino che da 5 watt e c'hai la tua potenza, capito? Avanti, Fra. Sto arrivando bene, eh. Ho spostato l'antenna e sono arrivato a 8 metri. Capo. Sì, va bene, va bene. Comunque c'è anche Antonio, Marco e a te. Niente, no, ma io mi stavo ascoltando e sono entrato per dire, siccome Marco c'aveva ragione, che MR Italy, quello lì, la scheda interna è MR Italy, e c'è anche la data di quando è stato fatto la radio, per ballo e linearetto, questo è del 2008, e in effetti l'altro che c'avevo prima che mi si era bruciato non era MR Italy all'interno, era MR. RM Italy, sì, beh, quello che c'ho io lineare è tutto RM Italy, vanno bene, vanno molto bene, no, sono contento che quei lineari li stiano ancora facendo, se poi c'è la scheda della RM Italy ancora meglio, perché sono veramente favolosi, vanno molto molto bene. Ti prendi Anto per salutare a Franco. Appa, salutoni Franco, però ti volevo dire una cosa, prima li facevano CTE, come tanti microfoni, però la CTE e la Midland sono la stessa azienda, non cambia niente, ma sicuramente se li fa costruire dalla RM Italy. Non so, Anto, il mio erano tutte e due, sono tutte e due, l'altro che non c'ho più è questo che ho, è CTE, non è Midland, capito, della CTE, è quello argentato, è quello color argento il mio, capito, quello lì. Anche quello tuo fa il color argento, no? No, è grigio, colore argento è l'altro, quello il dettaglio. No, con l'argento, quello è color oro, non è l'argento. L'argento è grigio, vai. L'argento è l'argento, l'oro è l'oro, tu. Anche il B300 è color oro. No, no, Franco, sto dicendo, quello che c'ha lui è argentato, no, non è color oro. Sì, è argentato, no, non è oro. Sì, allora già è come dice Antonio, va la stessa casa. Va bene, va bene. No, te ricordo Marco, io l'avevo messo in macchina e quando avevo l'impianto della macchina da lavoro e funzionava, era una cannonata. Una cannonata con l'Alan 48, cazzo, era una bomba. Ma poi mi ricordo Gianni che usciva uno spettacolo con quell'ignoretto. Vai Marco. Eia, vediamo se entra qualcuno. Sì, a Franco volevo chiedere, ma no, a Franco, no, Cla, ti volevo dire che, caspita se ha senso, quello modificato dai radioattori, perché chi ha per esempio l'817, lo Yaesu 817 che è un QRP che ha 5 watt, alcuni radioattori, tra cui questo tale Appigliale in Luce, il nominativo adesso non lo vedo, I6IBE, credo che sia questo nominativo, l'ha modificato e praticamente fa dai 20 metri ai 10 metri con questo linearetto. Cioè l'817 in HF c'ha 5 watt a mano laterale, no? Il vecchio 817, proprio è un apparecchio QRP. E lui praticamente da 5 watt se lo può alzare, se necessario, a 50, non so quanto riuscite a tirarlo. C'è proprio il sito con tutta la spiegazione anche tecnica di come l'ha modificato. Naturalmente perde specifiche, cioè anziché avere, che ne so, solo la 27 con 80-100 watt, lì gli ha allargato la frequenza, magari ne dà 50-60, però copre una banda molto più alta. Vai Franco. Ah, ora eccolo qua, questo è quello che sta andando, questo qua. Cosa? Come sta dicendo? Ti ho detto, questo qua è Cla. Il 747 è questo? Sì, ha. Vedi che rispetto al B150 la modulazione non te la porta via, mentre il B150 tende sempre a portare via un po' di modulazione, capito? Lo senti bene Antonio? È un po' basso di radio. Oh, no, a te, scusa, sono io che ce l'ho basso alla radio, dai, no, già ascolto bene, dai. Comunque, Cla, non so perché se è nuovo questo, però questo è dato per 100 watt, e me li dà, perché l'ho già provato e me li dà. ho provato, questo l'ho usato solo una volta, l'ho usato, poi non l'ho usato più. E, infatti l'ho messo sul 48 l'ho messo, che mi dà 4 watt, e 100 watt me li dà tranquillamente, me li dà. Sì, io ho detto 80 a 100 watt, anche il mio me li dà, e caspita, 747 dice io me li dà 100 watt, non pieni pieni, 90 e qualcosa, poi quando parli era 100, capito, però va bene, sono linee rette che vanno bene, sono dati da 100 watt e va bene, anche se ne danno 95 va bene, non è che devi dare 100 watt precisi precisi, vanno molto bene, caspita se vanno bene, ho voglia. Vai Marco. Sì, ho la foto, sì, questo radioamatore che l'ha fatto è il modello vecchio, c'è scritto Booster CTA International 747, si vede la scheda dentro ed è il modello vecchio, cioè quello marcato CE non è RM Italy, capito? C'ha sempre quattro finali, però non so che finali siano, dovrei guardare la descrizione che è lunga la pagina. Addirittura, non mi dire, cioè addirittura questo l'avrebbe fatto andare dagli 80 metri ai 10 metri, che ne so, gli dava 5 watt e aveva, che ne so, 10 metri 42 watt, 20 metri 89 watt, 40 metri 98 watt e 80 metri 58 watt, con 5 watt in ingresso dell'apparecchio QRP, incredibile. Bene, vanno, bene, io l'ho provato in tutte le maniere, guarda. L'ho provato con un watt e mezzo, l'ho provato con 3 watt, con 5 watt, con la massima potenza anche, senza darle molto piccoli modulazioni, perché c'è l'Ebex che ha 10 watt di portante, 12 watt di portante e quasi 18 modulati, è una canonata con la radio. E quindi regolando la potenza praticamente l'ho messo a 5 watt, di picco 10, ma c'aveva una radio spettacolare, non me la portava via. Sì, stavo, vabbè, leggendo, sì, comunque interessante anche questa cosa, vedi? Naturalmente questo era il modello vecchio, però se il nuovo sia un po' più stretto, che ne so, comunque fino a 20 metri riesce a tirarlo, senza problemi. Quindi chi ha parecchi QRP è buono. Vabbè, dai, riprendete voi, che vado bene, che sto asciuttando, come dice Gianni. Ehi, qualche altro passaggio, io sto andando sempre con questa radio, con 140 per farla andare un po', un altro passaggio, mi sento già rumore di piatti, stanno apparecchiando, quindi fra un po' ce ne andiamo a pappare, ce ne andiamo a pappare. Vai Anto. Aspetta, Claudio, ti volevo chiedere, ma questi nominativi radioamatoriali strani cosa sono? Quelli vecchi vecchi? Questo si chiama Italia 6IBE, cioè I6IBE, è un vecchio articolo questo, eh? Ehi, non c'entra niente, non si usano, non è che c'è un ordine alfabetico nominativi, io ce l'ho dal 92, la patente sono D, sono IS0D, capito? DF, quindi non c'entra niente, dipende, cioè i radioamatori più anziani di tutti, ricordatelo, quelli che hanno la patente, per dire che hanno 80 anni, hanno preso la patente da ragazzini, quelli sono a due, sono IS0UA per esempio, non a 3, IS0DB, ok? Quelli sono proprio i primi nominativi che hanno l'atto, quindi proprio che noi forse non avevamo neanche nati. Eia, non vecchissimo è l'articolo. Sì, stavo notando una cosa, poi questo modello vecchio della CTE ha gli stessi finali di quello moderno, no? Questi fantomatici MS1307, però ce l'ha messi tutti di lato, tutti da un lato, mentre nel modello nuovo sono... mi pare risposti in altro modo, boh, vabbè, Franco riprendi, dai, va bene. Capo, io riprendo e vi lascio e devo andare a mangiare, ci sentiamo. Buona cena quando l'ho fatta, buon tutto, ce la ascoltiamo nel prossimo video. Ciao Antonio, ciao Claudio, ciao e ce l'ha un Marco. Alla prossima, amate qua. Ciao Fra, grazie per essere entrato, quando vuoi siamo sempre qua, vai. Buona cena, buon tutto, ti faccio salutare l'Antonio, vai Anto. Franco, vai, ce la risentiamo alle prossimine, ciao ciao. Quindi mi confermi che questo qua va meglio? Sì, perlomeno da parte mia sì Anto, rispetto al B150 sì, perché il B150 ti porta via appena appena, non molto, è abbastanza comprensibile, però si sente che si è agganciato, mentre invece col 747 non si sente, capito? Vai alla grande Anto, e il segnale è sempre quello, mi vai da 15 a 20, quindi non c'è problema. La voglia, e allora lascio questo, lascio, scappa. Mi sto muovendo con quell'alimentatore là, perché lo porta bene, capito, con quello da pappa a Napoli, con quello da 30 ampere. Sì, a voglia ve lo porta, a voglia tu, non c'è problema. No, guarda, il segnale è uguale, vai da 15 a 9 più 15 a 9 più 20. Adesso io ho sollevato l'antenna, prima eri 9.10, 9.15, adesso sei 9.15, 9.20, è uguale, con tutte e due le linee reti sei uguale il segnale. E con quell'altra radio là c'hai leggermente più picchi di modulazione, ma va bene lo stesso, va benissimo alla grande. Purtroppo non abuso dratta perché supera. Supera cosa? Troppo forte. 3 watt, no, non va bene con quello attaccato. Ah, ho capito, ho capito. Infatti per quello che ho detto, usa 747. Se usi 747 va bene, non ti porta via la modulazione, tutto sotto controllo. Sì, ma anche usando 747 con l'altra radio non ce la faccio, non va bene, si saturo. C'è il gruppo ma comincia a saturare perché è troppo ingresso c'ha. E non andava, ci vuole una radio così, ci vuole. Questo è quello omologato che ho, capito? Sì, a questo è melegatto, va bene a tu, non ti preoccupare, vai benissimo, te l'ho già detto, ottimo, ottimo segnale, ottima radio, ottimo tutto. Peccato che non ti è rimasto manco più un microfono da tavolo, cazzo, perché se lì gli avessi messo il microfono da tavolo, saresti uscito alla grande, guarda, come che lo veda, ovunque su Galaxy che ha venduto un babuduio, venduto, regalato. Sai come saresti uscito, cazzo? Una bomba! No, regalato non l'avevamo regalato perché l'abbiamo venduto. Regalato no? Non mi hai capito a me, no. Metti l'ho già mandato io, mi. Te l'ho mandato io, capito? Te l'ho mandato io al mio vicino di casa. E poi me che c'è radio regalata, per come l'ho vista io. Per il prezzo che l'avete venduto, mi ti sto dicendo, era un prezzo regalato. Se tu avessi avuto quella radio, col microfono che avevi il Tone più 3B, avevi l'MB più 5, attaccato al Galaxy, con l'aiutino del 747, l'avessi gazzaniato un bel. Lo so, però io non è colpa mia, quella roba era la sua, non era la mia, purtroppo, cosa vuoi fare? Lo so, purtroppo è andata così, però sto dicendo, di belle cose ne hai avuto. Ecco, il Galaxy io l'ho visto, era nuovo, cioè 150 euro, cazzo io non l'avrei venduto, almeno 200, capito? Infatti si hanno i migliori da volo subito, lo so, ti capisco perfettamente, però me l'hai già spiegato, va bene così, voi microfoni, cazzo, tenerne uno, ma dico, tenimi uno da tavolo, no, tutti ho dati. Ragazzo, questi voti, allora, me dovrà comparare. Non sei fatti i soldi, Antonio, prenditi un MB più 4 o un MB più 5, che tu c'hai una voce bella corposa, lo fanno molto bene quei microfoni, molto bene. Con 50 euro ti compareggi un microfono nuovo, io guai che l'ho dato uno, se no te l'avrei dato a usarlo, l'ho dato, se no te l'avrei dato qua tranquillamente ad usarlo. Ne ho due, ed è uno sul DAC e uno sull'Elbex, perché ne avevo un altro senza connessione, mi ha fatto la connessione Luca, il coso nuovo, lo sto usando, uno col DAC e uno con l'Elbex, capito? non sono i miei e non chiedo niente a nessuno. E poi ce ne ho anche altre due, uno della Gain e l'altro della Precipson, sempre da tavolo. E un altro invece, un Expander, l'ho venduto lo stesso. E già ne ho microfoni. Poi un altro MB5 che però è testato Kenwood, che quello ce l'ho di scorta. Siamo qua, se ne avessi avuto un altro te l'avrò dato, però ti ripeto, compratelo un MB+4 o un MB+5 tu. E vedrai come esci bene con quella radio. Sai cosa ti sto usando adesso? Un DM1000 mi sto usando. Vecchio, proprio con quella scritta DM1000, chi su vecchio. Non Proxel, perché poi abbiamo fatto i Proxel. Io sto usando proprio quello vecchio. Ma funziona bene! C'è un sacco di anni ce l'ho. Certo ci funziona bene, alla grande, ma per non tenere il microfono in mano, mi capito quanto te lo stai dicendo. Lo appoggi sul tavolino e vai a parlare con quello da tavolo. Riesci molto bene. Comunque così io ti ascolto benissimo, non ti ho mai sentito così. Assolutamente mai, in tutti gli anni che ti conosco non sei mai uscito così bene. È un segnale bello, 9+20, radio 5, ottimo per la truppa, va benissimo alla grande. Vabbè, prima aveva un ruccio di cuburo, va giù l'antenna. E vabbè, c'hai anche la posizione, capito, sei a casa tua, non devi domandare permesso a nessuno, e tante cose ci sono tu. Tante cose ci sono, capito? E come me, io se non avessi avuto questa postazione sopra avrei, non so, cioè chiedere l'ordine, fare, mi fa fare questo, mi fa fare quell'altro, sarei stato in grande difficoltà, perché io ho molte antenne, i cavi di discesa sono tanti, capito? E quindi niente, però non chiedo niente a nessuno, salgo e scendo quando mi pare e piace, quindi c'hai tutte le comodità. E così sei tu adesso, capito? Vito, se arrivi di chi, vi abbia stato l'antenna, debutto il tutto, e che dà invece era una rottura di balle. Per me l'avrei piazzata lo stesso, ma lo sai come te l'ha fatto, vedo, il padrone di casa. E cosa vuoi fare? Per me aveva fatta uno, l'aveva fatta piazza Roma Tessime. A me mi ha fatto nulla. Lo so, lo sto lì a tira e molla, cosa fai? È un casino, e vabbè, comunque. L'importante è che stai bene, sei tranquillo con la tua compagna, fate bene, non te ne affutti nulla. Tutto il resto è passato. Fammi, va caricato, guarda, proviamo a trovare qualcuno che sa memorizzarmelo. Adesso chiediamo. Tanto io volentieri qua, te lo giuro, volentieri ti avrei potuto dare una mano, ma io non ne capisco niente di quella roba lì, non ne capisco niente, io ne ho due, però me li hanno dati già così, anzi ne avevo quattro di portatili, due li ho regalati, uno l'ho regalato a Luca, uno l'ho regalato a un'altra persona, e ne sono rimasti due, però me li hanno dati già memorizzati, capito? Li hanno già configurati praticamente, quindi io non sono capace a fare queste cose, se no volentieri te l'avrei fatto, figurati. Scappa, via va, di musica con numero base, sono contento se me lo fa qualcuno, ma anche pagandomi, cioè l'avrei anche pagato per farmelo, non mi interessa. Vabbè, pagando, si possono fare tante cose, ma se uno fa una cortesia che te la fa, non c'è bisogno, vai. Va bene Antonio, io da questo momento ti lascio, mi allontano verso le 8:20, vado via a farmi, vado a stuzzicare qualche cosa, un aperitivino, vai, e poi aspetto la cena. Grazie Antonio delle due chiacchiere, davvero, mi ha tenuto compagnia. E ci aggiorniamo, se coincide più tardi, se non venuto in televisione, ma tu domani devi lavorare, quindi sicuramente non accetti, e se no domani, come sempre, ok? Ciao Anto, grazie, un saluto, ok? Saluto anche chi è in ascolto, ciao Anto, aspetto il finale e poi chiudo. Ciao Clara, ciao, risentiamo alle prossime. No, non c'è problema, fatto domani sera già lo sai, la sera che entro un po'. Dai, mi ha fatto piacere anche a me, dai, buonanotte, ciao. Ciao Anto, a domani, dai, così magari facciamo qualche altra prova. Io Anto faccio di tutto, se riesco a procurartelo qualche tubo di quelli fini così, te lo procuro, capito? Però ti ripeto, se tu monti delle staffe lì, il tubo ce l'hai già pronto. Io ne ho tubi buoni, telescopici, però sono grossi, lì non vanno bene agganciare, lì bisogna innestare qualche tubo di quelli fini e tirarla su. Però io di quelli non ne ho, vedo un po' se te lo procuro, già ci sentiamo via WhatsApp, ok? Per adesso lascio così, poi più là quando mi metto il capo più lungo le staffe la metto al centro palazzo, la metto. Qualcuno mi ha detto che ce l'ha questo tubo, non lo so, perché cazzo, cioè, bisogna comprare la staffa a parte per questo cazzo di antenna, perché la vendono da parte, io ci ho agganciato il tubo sotto, già la conosci, burudù. Sì, l'ho piazzata a mano, ho i punti uguale a quella, non c'è problema, già ho capito quale staffa è. Ma ti serve la staffa quella a cavallotto, tu? Quella che attacca sotto, perché qua staffa non ce n'è, no, il tubo, lo sai come l'ho agganciato? Gli ho messo un pezzo di tubo fine, l'ho agganciata sotto, gli ho messo il dado, gli ammari chi rivenga, sa ma che vuole, se fa vento, gli ho messo il dado da sotto, c'è un buchettino, gli ho oltrepassato, gli ho messo il dado passante. Ascolta, ma a te ti serve il cavallotto praticamente, perché quell'antenna lì c'ha due fori, no? Entrano due cavallotti e poi si aggancia il tubo, cosa ti manca a te? Quello lì, quello che aggancia. Il cavallotto ti manca il cavallotto con la piastra, quello lì ti manca, con quello tipo quello dove si attaccano le antenne TV, quello lì ti manca. È una cosa del genere. Allora tu, quando hai due minuti, fammi la foto domani di giorno, mi fai la foto di quello che ti manca, che io di quella roba ne ho, pensavo ti mancasse qualche altra cosa. Fammi la foto di se è quello che sto dicendo io, ce li ho nuove quegli agganci io, Anto, perché a volte capita che sono gli stessi cavallotti con l'aggancio della contropiastra, uguali alle antenne delle direttive, capito? Quindi ne ho di quei pezzi lì. Domani alla luce mi fai la foto di proprio del pezzo che manca, guardo se ce l'ho, te lo do io, così fai lo travaglio fatto bene. La gioco di Candy, la gioco la cosa, ce la dovrei avere la fotografia, te la mando. Guarda se c'è la foto, mandamela, perché se quella piastra che ti manca, io già ne ho di quei cavallotti con il gancio per mantenere l'antenna al tubo, non ce n'è problema, tu ne ho di tutte le misure, larghe, strette, non ce n'è problema. E se no te la posso fare una di Gisitaffi da Roberto, non è un problema, fammi sapere cosa ti manca tu. Cappa, ma la becco e te la posso vedere. Cappa, dai, mandamela su WhatsApp. Ciao, buonanotte e saluto a tutti. Ciao Marco lì, sto chiudendo che ho fame, ciao. Ciao. Eia, ci sentiamo Claudio, eia. Esisteva anche il 797, controllato adesso, 797 200 AM 400 SB, 6 posizioni. Ok. Anto, ma tu di serie avevi quelle staffe corte, quelle... faccio prima a mandarte. Capo, va. Ringrazio. Prova, test. Ora la cipolla. Allora ve la domandata a Claudio, amico, già. Queste mi mancano a me. Allora, io quando ho comprato da Fusaro, nella busta troppo queste staffe, e sono orribili, sono bruttissime, sembrano staffe di boomerang, però corte, brutte, mai viste staffe così brutte. Io speravo che ci fosse l'attacco a cavallotto, quello che ha detto Claudio, capito? Invece mi sono trovato queste, però oddio, funzionavano, non è che non funzionassero. Ma scusa, ma l'antenna tu come la ce l'avevi? Tanto senza staffa te l'hanno data o con la staffa? Senza staffe. Ti faccio vedere cosa c'avevo, aspetta. Nation. Salute e ghiande. Ah, bisogna cazzarruttare così. Ah, tu l'hai infilata nel palo e poi c'è un dado, una vite che entra di lato. Ha giù compreso, sì. E sono brutte quelle di serie. Bruttissime, l'avevo scritto anche su un forum. Le staffe più brutte che abbia mai visto per un'antenna da base. Vabbè che la lingua è leggera, non ha bisogno di cavallotti troppo grossi, eccetera. Oh, Marco, ma io non ho capito, tanto questa foto, dove c'è questo cazzo di spirale? Tu ci hai messo il buco, il coso lì. Allora, ma lì ci vanno dei cavallotti? Non ho capito, Marco, io questa antenna non la conosco, non è questa che io ho montato a Mauro, è diversa da questa. La quella. Ti posso mandare le staffe originali dell'antenna della Ringo comprata da Fusaro, quelle che ho trovato io ti faccio vedere. Fammi vedere qualcosa di più, perché io qua l'antenna non. Così non riesco a capire cosa manca, non si vuole un cacchio, si vuole l'innesto del tubo e basta. Mandami le staffe originali, vediamo se ce le ho. Guarda, se ci avrei avuto le staffe originali sei stato contento. Gì mi manda la foto grazie di Marco, e poi vediamo se ce li ho. Aspetta un attimo tu, che così poi vado a mangiare. Eia, guarda, quelle staffe lì erano quelle che c'erano nella busta della, proprio sigillata, la busta sigillata la Ringo, c'erano quelle staffe lì che erano bruttissime. Erano staffe tipo boomerang, però corte. Oh, funzionavano, Cioè, l'antenna non ha problemi, è talmente leggera che ne basterebbe anche una. Però guarda che brutte che sono, Claudio, veramente brutte. Queste sono le tipiche staffe paro corte. Queste sono quelle in dotazione. Ma tu che cosa hai messo, cazzo? Io a me mi interessa sapere cosa hai messo tu, perché se tu hai messo i cavallotti con l'aggancio dietro che mantengono l'antenna, io quelli ce li ho. Io ho messo il palo, l'ho agganciato sotto, cioè un palamisura l'ho agganciato sotto. Non tu, no, Marco, tu hai messo i cavallotti, Marco, due cavallotti hai messo con la contropiastra dietro. No, io quando ho messo la Ringo ho usato le staffe di serie, quelle che trovi che ci sono nella foto, cioè quelle mi hanno dato proprio nella busta sigillata erano, quelle ho messo. Aspetta che le giro ad Antonio queste. Ti giro queste staffe, sono semplici Anto staffe, palo corte, queste devi comprare tu. Ma chi me l'ha data non me l'ha data nella serie. Gliel'ho già mandate? Ah, gliel'hai già mandate? Ok. Quelle devi comprare tu, Anto. Queste ci sono da Fusaro, ci sono da GBC, ci sono anche da Bricome, costano una cazzata. Ecco, con queste tu risolvi il problema. Allora, con queste staffe noi possiamo mettere qualsiasi tipo di tubo, capito, Anto? Capo, è quelle che a me mi sono mancate. Vabbè, me ne hai data, cosa devo fare? Sicuramente chi è ce l'ha, se li ha prese. Vabbè, pazienza. Vabbè, ma non ti preoccupare, se mancano queste staffe paro, io già te le procuro, non ti preoccupare. In modo che una volta che ci sono queste staffe, allora si può mettere bene il tubo, anche un pochino più grosso, e l'antenna si tira su. Ma così no, capito? Così no. Fammi vedere un pochino, Anto, dai, già ci aggiorniamo su WhatsApp, che mi stanno chiamando a cenare. Ciao a tutte e due, a domani. Ciao, Ciao, buona serata, ciao. No, non lo so perché, ma io mi ricordo che quella di Babbo c'era, non quelle staffe lì. Questa, vabbè, mi hanno fatta così e mi ha contento lo stesso, però per il momento la lasciamo così e va bene, perché ci ho dovuto mettere anche un rinforzo sotto perché mi stava girando le palle. E va bene così, poi quando metterò le staffe a muro la cambio. Io avrei preferito quella a cavallotto, Però, visto che erano in dotazione, ho usato quelle. Poi ripeto, la Ringo è talmente leggera che non, quelle ce n'è d'avanzo anche, mi ha detto. Sì, quelle sono proprio palo palo, come ha detto Claudio, le più semplici. Poi che a me non piacessero, quella è un'opinione mia, vabbè. Poi la Ringo mi si è sfasciata piano piano, non andava bene, l'ho tolta. Capa. Spera un attimo, sto rispondendo. Marco? Yeah. Il capo, ho ripreso, miglior risposta a una persona. Vabbè, più là me le piglio quelle lì, me le prendo. Ci sarà stato un motivo perché sono fatte così, sicuramente. Sì, cioè funzionano, capito, non è che... Poi vabbè, io a cavallotto le volevo, quel sistema diverso. Però quelle c'erano, quelle uso, tanto mi se le vai a comprare è lo stesso, cioè devi aggiungere i soldi, cosa ci buttavo, quelle in dotazione, assolutamente no. Cappa, già vanno bene, infatti mi ricordo che babbo ce l'aveva. Io invece per un'antenna di scone c'era una staffa particolare, da una parte era tipo quella, non per il palo classico, però dall'altra c'era saldato una frazione di palo alta 5 cm ed era perfetta per quella discone che avevo io, per come la volevo mettere io. Beh, introvabile, quella cosa lì è introvabile, quel tipo di staffa. Credo che fosse una cosa artigianale, fatta anche in casa, cioè saldando proprio 5, fai anche 10 cm di un pezzo di tubo a una staffa palo muro, dovrebbe essere, sì. Cappa. Ce l'ho avuto il discone pure io, è in magazzino, è da babbo giù. Marco? Fate. Sì, eccomi. Un attimo solo che metto un po' di squelce che qua. Sembra una friggitrice questo baracchinetto, pure senza smittere, Antonio, te ne immagini? Baracchino veicolare senza smittere, uno dei pochi, eh. Ma chi è che sta chiamando avanti? Ciao, mi ricevete? Sì. Ciao Gianfranco. Marco, mi dici se la radio ha avuto mutazioni, cambiamenti rispetto al solito? Forse. Ma variazioni di segnale, perché già fra io ho un barchino diverso e non ha smitter qua. No, solo la radio, se per caso si è incupita. Sento meglio. È difficile da dirsi. Questo c'ha l'altoparlante frontale, c'ha proprio una timbrica diversa e quindi non ho mai una costante per dare i controlli, Gianfranco, non te lo saprei dire. Anto, per te com'è la radio? Va bene, non è cuffa, no? Ma no, io lo sento benissimo, lo sento, eh. Ok. Però volevo sapere perché non sapevo, diciamo, non ho mai provato questa cosa e quindi volevo capire un attimino come stavo andando. Ti sento benissimo, Gianfra. Sì, non sono la solita antenna, sono un'antenna molto molto più grande, però è un dipolo, quindi è molto direzionale. Anzi, adesso commuto, vediamo se esplode. No, meglio di no, come non detto. Già va bene. Eppure avevo voluto vedere che questo baracchino senza smittere. Gli anni fa ne ho avuto uno, strano. Adesso te lo mando, all'altoparlante frontale, no? Però essendoci poco spazio, smitter non ne hanno messo. Adesso te lo mando. Che cavolo apparecchio, chissimo, No, degli anni 2000, dal 2000 in poi. Quegli anni lì, inizi anni 2000, dai. Anche a metà anni 2000, anche fine anni 2000 se vogliamo. Sì. Ma è Lincoln? Aspetta, cazzo c'è sta parola, scusate la parolaccia, ma cosa c'è sta parola? Alzo il volume, dai, dimmi cosa mi hai chiesto. No, se c'è il Lincoln, quello là, che mi dicevi? Oh, non ti capisco, non ho capito se l'apparecchio. se c'è Lincoln, com'è? È Lincoln. Ma Lincoln? No, quello apparecchio lì dei presidenti, adesso non mi ricordo come si chiama il nome, cioè l'autoparlante frontale, che c'è anche l'SSD. No, no, questo è l'Intech. Intech M150 Plus 40 canali MFM e multi standard. Ah, ho capito. Perché quello che c'è tu, quello con cui ti sento sempre, dalla President, ecco, adesso mi è venuto il nome, lo sento spessissimo, sento quel tipo di beat che ha. In FM, quando muovono i tedeschi, è molto molto buono, eh? Se vogliamo dirla tutta, il McKinley, no? Prese McKinley, c'è un bug, il Roger Beep, quello che dici tu che hai sentito, è appena udibile con il McKinley. Tutti i McKinley versione europea che hanno fatto, forse anche quello americano, hanno il beep basso, basso, basso, Roger Beep. Tu ne hai sentito uno bello, bello forte, ma non era il McKinley, no? Diciamo stessa marca, ma un'altra cosa. Lo senti? Sì. Che strano, non mi vedo. No, già mi vedo. Guarda, ho fatto sbagliato. Tu invece, adesso mi sentirai o più debole o più forte, perché l'antenna è verticale, però c'ho meno, scendo a quasi un watt, quindi pochissimo. Sto utilizzando l'Alfa Yeti Zero, se sto usando in questo momento, allora, col display blu. Roba vecchia, no? No, nuovo, nuovo, e cosa l'avevo comprato? Questo qua... comprato 5-6 anni fa. L'hai visto Anton? Sì, l'avevo visto in un catalogo quello, ma c'è anche quello Smith però mi pare. Esatto, c'erano due versioni, quello con lo Smith aveva l'altoparlante sotto come tutti i baracchini, questo invece ce l'aveva frontale per l'utilizzo in macchina, magari per migliorare la ricezione, solo che la qualità è un po' risicata, cioè tutto TTCM come timbrica. Il presidente è un abisso, il presidente c'ha tonalità calde, quello con l'altoparlante frontale, vabbè, ma stiamo parlando di due apparecchi di prezzo, mi pare, praticamente ne fai quattro, no, quello che vale l'Intech ne prendi, cioè con quello che vale il presidente ne prendi quattro di quegli Intech. Vai Gianfra. Ah, c'è il Compander. No, questo no. Avanti Gianfra. Tanto, ma io lo sto guardando in foto e onestamente non è molto carino, è quello argentato. E anche la plastica mi sembra una manopole, o è la foto fatta male, però molto, come dire, economico, dai, come apparecchio. Vabbè, questo qua c'è la mascherina grigia, c'ha l'Alfa Yeti Zero, se stai guardando. Sì, ha anche il frequentimetro, giusto? Sì, volendo sì, no, non lo tipo mai, ma volendo sì. Ho capito. Beh, come radio ti sento bene, la verità, anche come segnale, secondo per me va bene. E l'apparecchio un po' non veicolare, così. Mi piace più quello di Marco, che anche c'è anche l'SSD. Credo che sia anche abbastanza accentuato di frequenza, se è quello che abbiamo provato l'altra volta, vero Marco? Sì, almeno in USB, che poi è quella che uso sempre e solo quella. Era 26, cioè 0.9, forse 0.99, non, una cosa del genere, sì, abbastanza centrato. Eh, credo che sia l'ultimo uscito, perché Lincoln 2 è già di anni fa, quasi 10 anni fa forse. Il Grant addirittura fuori produzione, lo stesso, il Grant 2, no? Sempre display LCD, no? Molti tasti frontali, anche troppi, un po' disturbava visivamente. Quello ne ha pochi, però poi, grazie a Dio, adesso ti spiego, per esempio, se vuoi regolare la potenza in aereo,